Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1863, il presidente del Consiglio è pazzo. A scatenare la crisi finale dell'uomo e del governo è stata la rivoluzione polacca, perché Luigi Carlo Farini, romagnolo di Russi, medico, patriota e dall'8 dicembre dell'anno scorso presidente del Consiglio del Regno d'Italia, pur avendo già dato segni di squilibrio proprio a causa della rivoluzione polacca, ha passato il confine della follia conclamata. L'episodio clamoroso ed evidente non ha potuto essere taciuto come in altri casi, perché in pieno Consiglio dei Ministri, alla presenza del re, il presidente Farini si è messo a sostenere la tesi che fosse d'obbligo per la nuova Italia a dichiarare immediatamente guerra alla Russia per difendere la rivoluzione nazionale dei polacchi da anni privi del loro Stato. Visto che anche Francia e Inghilterra hanno abbandonato ogni velleità di appoggio alla causa polacca, dopo che il cancelliere prussiano Otto von Bismarck ha offerto il suo appoggio allo zar, la proposta di Farini è parsa a tutti e in primis al re fuori dalla realtà. Ma Farini ha insistito e poi è stato preso dalla collera e è arrivato a minacciare il re, chi dice con un tagliacarte, chi con una rivoltella. L'episodio clamoroso, avvenuto in presenza di testimoni, ha obbligato il re a chiedere le dimissioni di Farini. Il 24 marzo di questo 1863 Farini ha lasciato la guida del governo ed è stato tradotto nello stabilimento di salute, cioè il manicomio di Novale Sesa in Val di Susa. Il sovrano, dicono tutti, ne avrebbe fatto volentieri a meno. La condizione di Farini, che il suo amico deputato Gaspare Finali descriveva imbambolito, con gli occhi fissi, che quasi mai prende la parola, aveva rappresentato per il re la condizione ideale per governare direttamente. E così, in questi 2 mesi e mezzo, l'alienazione mentale del presidente ha consentito a Vittorio Emanuele di promuovere un'iniziativa segreta volta a far scoppiare una rivolta in Ungheria per destabilizzare l'impero d'Austria e aprire la strada all'annessione del Veneto. Una mossa molto rischiosa, come già quella d'Aspromonte con Garibaldi. Per l'equilibrio della nuova Italia si può dire quindi fortunata la pazzia di Farini. A sostituirlo è infatti arrivato un uomo perfettamente in sé, che dopo la sconfitta sulla proposta di costituire le regioni era rimasto appartato per un po'. Marco Minghetti è stato scelto come presidente, con Visconti Venosta ministro degli esteri. La prima preoccupazione del governo si sposta all'interno. Minghetti vorrebbe rilanciare le regioni, ma non è aria. Il brigantaggio rafforza i fautori del centralismo e della maniera forte. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.